Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. La retrocessione immediata e la revoca anche dello scudetto dell'anno scorso per la Juve, così tutti contenti e l'Inter vince subito un altro campionato. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Zlatan Ibrahimovic, lo ricordiamo, lo ribadiamo, positivo al Covid-19, Ibra, solo Ibra del gruppo squadra positivo, quindi Ibra immediatamente isolato, Ibra che è già a casa. Zlatan è Zlatan e quindi ha vissuto, per quello che l'ho visto, ha vissuto questa esperienza con la sua solita spavalderia. Nuovo offre una linea interna, stavolta il ritmo della palla è giusta e realizza la rete che porta in vantaggio il Milan, proprio il ragazzino Lorenzo Colombo. Una bella storia, ma come ho già detto è solo l'inizio, perché con l'inizio alla fine non ci si fa niente, l'importante è costruire una carriera importante davanti. Calcio d'angolo dentro, cercare Cavi Martinez che viene anticipato, poi dalla distanza Alaba, Cavi Martinez, 2-1 Bayern, il nuovo entrato al minuto 104, trova il colpo di testa vincente che porta il Bayern davanti. Lorenzo Nespoli, Gianmarco Ferronato e Pierluigi Pardo, che abbiamo ora sentito raccontare il gol che ha deciso la Supercoppa Europea, radio twittami d'immenso. Ma allora ti radio twitto su Zanardi, perché, sì, perché sai, conosciamo le regole della mediaticità e anche ovviamente il rispetto, il riservo, le notizie arrivano quando devono arrivare, ogni tanto delle indiscrezioni che nel caso per esempio di ieri ci hanno comunque strappato un mezzo sorriso, ci hanno confermato la temperata combattente di questo uomo straordinario, ma anche la lunghezza del viaggio, la complessità della partita che ha davanti a sé. Quindi insomma, siccome poi parlarne troppo significa fare accanimento su delle vicende private eccetera, ma non parlarne proprio è altrettanto sbagliato, vogliamo abbracciarlo e continuare in silenzio a tifare per lui, che credo sia la cosa più importante di questi mesi. Riccardo Trevisani, vedi com'è bravo il mio amico Pardo? Eh? Mamma mia ragazzi, se vanno a fare delle cronache eccezionali. Pensando di farti cosa gradita a me lo è di certo, ho rubato oggi Riccardo Trevisani a Sky. Senti, oggi a Milanello Tromba d'Aria, che ha tirato giù un albero storico di fronte all'ingresso, quindi tutti barricati dentro, centro sportivo isolato, non si hanno però, Riccardo, non so se tu le hai, notizie di cavallette pronte all'invasione. No, anche quello, so che tra l'altro anche a Castelvortuno è stato un problema, anche lì un albero è venuto giù, quindi è un disastro meteo, diciamo, che abbraccia tutta l'Italia, da Milano a Napoli. Però certo, ecco, sul Milan in questo momento c'è una grande concentrazione di eventi, se pensiamo che insomma è andato il Covid a prendere quello che noi ci sembra imbattibile, no? Quello che sembra essere indistruttibile, invece è stato pizzicato da questo maledetto virus. Però insomma, la speranza è che Ibra salti soltanto veramente due partite, perché il Milan che ho visto ieri sera mi ha fatto stare in angoscia per 30 minuti contro il Bodo Glimt. Ho rivisto dei limiti che ho dimenticato fino a, diciamo, febbraio. Ecco, fa tutta la differenza del mondo quello che ha detto, anche non per giocare, nel senso, no? L'uomo segna, c'ha la nuova le fiamme, tutto quanto, però la squadra è completamente intimidita, quello che col Bologna non è mai successo. Bravo, col Bologna, bravo, non col Bodo Glimt. No, no, infatti riguardando la partita ho detto dovrebbero mettere, presente le partite NBA, dove ci sono i tifosi virtuali che guardano la partita, dovrebbero mettere lo stesso tabellone su Ibrahimovic in panchina, esatto, al limite anche in panchina, Ibra, eh. Al limite Ibra anche dalla carica. Sì. Poi come ha fatto Juric l'altro giorno a Verona che urlava da sopra, essendo squalificato, urlava e si sentiva se possibile ancora di più. No, ma è assolutamente vero, insomma, il Milan è una cosa con Ibra e una cosa senza di lui. Il contributo di Ibrahimovic è legato alla sua prestazione individuale, sicuramente, che spesso fa la differenza, ma anche all'effetto che si propaga sul resto della squadra, in particolar modo sui giocatori più giovani, in particolar modo nei momenti di difficoltà. Ecco, questo ieri si è visto e quindi insomma è inutile, cioè non c'è niente di intelligente da dire su questa cosa. Ibra deve tornare presto, gli facciamo in bocca al lupo ovviamente per la vicenda Covid, e per i tifosi del Milan è fondamentale che torni in tempi ragionevoli. C'è tutto un tema legato al recupero dal Covid, no? Perché sappiamo che ovviamente ci sono i tempi della quarantena. Un conto è per un lavoratore normale tornare al lavoro, addirittura poter fare smart working se non ha sintomi, senza particolari conseguenze. Un conto è ovviamente la vita di un atleta di quel livello lì, ma chiaro. Per cui sarà anche molto importante il lavoro dei preparatori, che dovranno, compatibilmente alle condizioni fisiche, ovviamente augurandoci che non ci sia nessun effetto particolare di questo Covid, riuscire a tenere alto il tono muscolare, perché pure no, beh, è chiaro, una volta che uno torna, poi deve tornare ad essere un giocatore, quindi il passo non è semplicemente il guarire, il tampone positivo, è anche quello che succede dopo in questo caso. In ogni caso, vado di nuovo da Riccardo Trevisani, in questi casi, caro mio, scrivere la formazione in questi giorni è un casino, eh. Bisogna chiamare il medico, bisogna chiamare l'avvocato, bisogna chiamare quello della Lega, è un attimo sbagliare un nome. Bisogna sbagliare la lista, perché sennò si finisce a fare le figure fatte in Verona-Roma, per cui bisogna stare molto molto molto attenti. C'è lavoro per i team manager, per la segreteria, però penso che poi alla fine nelle società organizzate si riesca a fare tutto. Di certo, con un tampone ogni uno o due giorni, Pioli rischia di poter vedere saltare un giocatore da un momento all'altro senza aspettarselo. È chiaro che il Milan dipende da Ibrahimovic, e anche il peccato vero è che è vero che le partite sono con Crotone e Spezia, quindi tra virgolette abbordabili, però era proprio un Ibra diverso quello visto contro il Bologna. Io ho la fortuna di commentare la partita e vi dico che ho visto tante volte il Milan l'anno scorso, anche quando stava andando bene, anche con Ibra in campo, Ibra passeggiava l'anno scorso. Sì, Ibra col Bologna correva. Sì, col Bologna correva, si veniva fuori dal centro dell'area di rigore, si muoveva, scambiava, combatteva, preso il calcio all'arità di tre. Cioè, è sembra 32enne, non 38. No, ha iniziato la stagione. Sì, dico, hai ragione Riccardo, ha iniziato la stagione in una maniera incredibile, secondo me con una voglia, quasi con la voglia di dimostrare che quell'ingaggio lì se lo merita ancora, che il Milan l'ha voluto, se l'è preso con forza. Sappiamo che ha avuto un ruolo anche politico, la conferma di Pioli, tutto quello che è successo, insomma è una sorta di contaminazione, uso volutamente questa parola, però positiva, importante e proficua, che c'è stata in tutto il Milan, di cui Ibra è protagonista assoluto, sono d'accordo. Cioè, l'anno scorso lui è arrivato, ha fatto delle cose, ha fatto delle giocate, è stato un giocatore che sicuramente ha contribuito all'autostima del gruppo, ma dopo il lockdown abbiamo visto un giocatore diverso, abbiamo visto un leader anche quando per esempio lasciava il campo per stare in panchina, e nell'avvio di questa stagione, che di fatto corrisponde alla fine di quella vecchia, perché il tempo trascorso è pochissimo, ancora di più. Quindi è una situazione da monitorare, importantissima, è una tegola enorme. No, è importante perfino l'anno scorso, era importante perfino quando stava in panchina, quando lo sostituivano. Quest'anno è importante pure sul campo, è più pesante rispetto all'anno scorso, questo è indubbio. Dato che sono un po' stronzo, vorrei tornare su un punto che vi ha divertito l'altra volta. Senta Trevisani, ma all'ordo dei tre punti di Verona, sempre convinto che la Roma sia dal settimo posto? Ancora di più. Le casualità, le difficoltà, no? Questo modo randomico di affrontare la stagione con liste fatte a caso, un mercato che non prevede un centravanti, non c'è davanti. Liste fatte a caso. Beh ragazzi, c'era un Der oltre a Diawara nella lista sbagliata. Un Der gioca nell'Inter. Sì, pare che l'abbiano venduta, sì. E tra l'altro voglio dire una situazione facile, che la lista viene sottoposta a un direttore sportivo prima di essere mandata. Il direttore sportivo non c'è, quindi il problema nasce a monte, nasce alla base. Cioè, poi possiamo dare la colpa a chi vogliamo, a chi si è dimesso o a chi si è dimesso prendendosi la colpa non necessariamente tutta sua, ma resta il fatto che in un'organizzazione normale questa cosa non succede. Poi dopodiché ti dico, a Roma, a Verona ho visto delle buone cose, ho visto uno Spinazzola in versione fenomeno, ho visto Mkhitaryan e Pedro che finché hanno avuto birra in corpo volavano, ho visto una squadra che ha delle qualità, ma torno al fuoricampo. Il fuoricampo è un allenatore sulla graticola, una società che non c'è, un centravanti convocato quando manca palesemente lui, se no più tempo finisce 4-0 per la Roma, che non può entrare pur essendo stato convocato e che non ha una riserva in rosa. Cioè, se ti sembra normale, a me non mi sembra normale. Per questo penso a una stagione così, perché non funziona niente al momento. Beh, c'è ancora del tempo, anche se sicuramente ce n'è di meno. E i Friedkin stanno lavorando credo in silenzio. Mi pare che il low profile sia la cifra. E potrebbe essere una buona notizia questa, perché insomma non mi sembra che sia una caccia di visibilità e di proclami. E sicuramente Verona, il post Verona ovviamente, col caso di Avarà, è stato potrebbe essere stato anche un acceleratore di certi processi, di certe rivoluzioni. Potrebbe essere stato anche addirittura qualcosa di positivo per la Roma, per dare alla nuova una sveglia, facciamo in fretta a riorganizzarci. Esatto, perché io ribadisco, secondo me la squadra tecnicamente è una buona squadra che deve essere migliorata, la devo di Kumbulla, secondo me è importante in fase difensiva, serve in ogni caso anche con Dzeko che resta un'alternativa e un secondo cambio in attacco, serve ancora qualcosa, ma soprattutto serve che la nuova società si faccia sentire, insomma, quindi sì. Questo è indiscutibile, era la cosa che veniva rimproverata a Pallotta, cioè la distanza, la lontananza. Ho la sensazione che loro abbiano iniziato bene, ma ripeto, è troppo presto. Poi sul piazzamento in campionato ci sentiamo il 5 ottobre. Sì, ma il 5 ottobre perché dipende dal mercato, ok? Certo. Il mercato è completamente, non cambia assolutamente niente la questione. Beh, del mercato, cioè se la stagione quella è, perché comunque dalla panchina da una parte entra Osimhen, da dentro non entra nessuno, e pure se te lo compri non ti compri Osimhen come per centravanti di riserva, ci siamo, lì c'è Mertens titolare, quindi non c'è da discutere, cioè, sul valore della squadra che non farà mai i primi 4 posti, neanche se giocano 738 giornate anziché 38. Ma la cosa su cui voglio farvi riflettere è questa: Roma stava per passare di mano prima del disastro del Covid a gennaio-dicembre, siamo d'accordo? Sì. Questo era già fatto. Perfetto. Quindi, quando poi tu la riprendi il 10 agosto con una grande tempistica, il giorno di Siviglia-Roma, per distrarre tutti e fare una partita che già era impossibile, renderla totalmente impossibile, quindi altro capolavoro, tu dopo 7 mesi che stai facendo questa acquisizione ti presenti senza un direttore sportivo, comincia la stagione e dopo altri 45 giorni non c'è un direttore sportivo. Non mi dite che non c'era tempo, perché sono 8 mesi che si sta comprando la Roma e in 8 mesi ci sarebbero stati da testare 888 direttori sportivi, e questa cosa non è successa, e non è successa perché è una scelta, non perché manca del tempo. Poi il 6 ottobre arriva Paratici, tanti applausi ai Friedkin, tanti, ma al momento sono 8 mesi che i Friedkin stanno sulla Roma e non hanno preso un direttore sportivo. Secondo me nel 2020 è una cosa incredibile. Quindi tu dici la mancata nomina, scelta del direttore sportivo è stata fatta in funzione dell'attesa di Paratici? È l'unica spiegazione che può, diciamo, salvare da una totale bocciatura la decisione. Può avere un senso quello di andare a prendere dopo questa sessione di mercato Paratici, o comunque insomma un direttore sportivo di alto livello, questo ci sta. Sul discorso della tempistica del 10 agosto, sai, la Roma arrivava a quella partita dopo un ottimo finale di stagione pieno di vittorie, e mi ricordo quello che molti dicevano il giorno stesso, sembrava un'ulteriore iniezione di entusiasmo nei confronti della squadra. Quindi adesso poi la Roma quella partita l'ha completamente sbagliata contro una grande avversaria che poi ha vinto la Coppa, ma la Roma ha giocato una partita inguardabile quel giorno. È chiaro che poi col senno di poi diciamo che l'effetto di quella notizia era stato negativo, ma il giorno stesso in molti pensavano che invece avrebbe rappresentato un'ulteriore iniezione di fiducia nei confronti della squadra. Quindi poi è chiaro che tante volte il risultato modifica anche un po' le valutazioni. Te le ricordi le parole di Dzeko a fine partita? Ti sembrava entusiasta? Sì, No, ma non mi sembra entusiasta della partita. In qualche modo anche dell'allenatore in quella circostanza. Una nuova petizione, dice vabbè, abbiamo perso questa, ma l'anno prossimo andrà benissimo, non sponda l'allenatore. E quindi evidentemente tutto questo entusiasmo comunque non c'era. Ragazzi, vi chiedo un istante. Non c'era dopo la partita, ragazzi. Dopo la partita non c'era entusiasmo perché erano giocato malissimo. E quando tu intervisti nella super flash, come si dice in gergo, cioè l'intervista al fischio finale, raccoglie gli umori, e gli umori non potevano che essere quelli. C'erano grandi aspettative su quella partita, la Roma l'ha scannata clamorosamente, strabattuta, quindi insomma non è che non c'è molto altro da dire, tant'è vero che poi Dzeko alla fine resta alla Roma, voleva sicuramente regalarci un'esperienza di tipo diverso, ma da tutto quello che mi risulta resta tutto sommato felice dal punto di vista personale, dal punto di vista ambientale. Io credo che Dzeko sia il tema meno pesante da questo punto di vista. Sì, magari con calma, perché insomma anche lui aveva le valigie pronte, insomma al di là della Juventus, del fatto che sarebbe comunque andato alla Juventus per competere per lo scudetto, per la Champions eccetera, anche il fatto che sei lì che devi andare, sai che devi andare, ti dicono che vai e poi alla fine non vai, quindi penso che al di là dell'amore per Roma un po' di tempo a Dzeko per metabolizzare sta storia glielo si debba trovare. Vi interrompo un istante, c'è anche Filippo Davarese in ascolto, un breve stacco ma torniamo per un paio d'altri temi. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. In merito all'affare Dzeko Morata, secondo voi è più facile far convivere Ronaldo Dybala Dzeko o Dybala Ronaldo Alvaro? Rispondete voi, Pierluigi. Allora risponde Riccardo Trevisani. Sono addormentato. Io penso che sia più facile far coinvolgere in un progetto tecnico tattico Kulusevski, Ronaldo e un altro attaccante, ma che sia molto complicato nel 3-2-5 di Pirlo far coinvolgere tre attaccanti veri, perché vorrebbe dire mettere fuori Kulusevski, e secondo me in questa Juventus non può uscire Kulusevski. Filippo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Niente, mi permetto con grande umiltà di dissentire dalla vostra opinione circa la paura dei giocatori del Milan senza Ibra in campo ieri sera. Mi permetto di dire che secondo me era solo una questione di condizione fisica, nel senso che i norvegesi, secondo me, dopo il secondo gol hanno cominciato a crederci un po' di più e a correre un po' di più, e noi io sono milanista, sono tifoso milanista, non ne avevamo più. Hanno 18 giornate di campionato nelle gambe e sono primi in classifica campionato norvegese. Questo è il discorso che si è fatto anche sugli irlandesi, no? È il discorso è assolutamente corretto, cioè la differenza di condizione tra le due squadre era enorme. La differenza tecnica però era anche enorme al contrario, quindi secondo me ci stava il fatto di soffrire un po' di meno, no? L'ambizione a soffrire un po' meno di ieri sera da parte del Milan. Sì. E il passo indietro secondo me c'è stato rispetto alle altre prestazioni, però che ci fosse un tema di condizione questo è indiscutibile. Va detto, questo qui per la cronaca, a proposito del discorso che ho fatto su Paradici prima, che Fienga stamattina fra l'altro ha smentito, ma no, ovviamente poi le vie del mercato sono infinite, ma ha smentito l'ipotesi Paratici, questo lo diciamo per informazione di cronaca, per la cronaca. Il tema sul direttore sportivo della Roma rimane un tema secondo me fondamentale, centrale, e sul discorso che faceva l'ascoltatore prima sul partner ideale, sicuramente Dzeko è il partner ideale, perché Dzeko è un attaccante perfetto nel più di Suarez, te l'ho detto mille volte, secondo me di Suarez sicuramente, così come penso che Suarez per la sua abitudine a certe platee, per la sua capacità realizzativa fosse una soluzione molto, molto interessante, ma credo che Pirlo essenzialmente preferisse Dzeko. Cioè, il piano A secondo me era assolutamente quello con Milik e con la situazione Milik che ha fatto saltare il banco, cioè, non c'è dubbio, non c'è discussione da questo punto di vista. Morata è un giocatore interessante che ha vissuto alti e bassi nella sua carriera anche all'interno della stessa stagione, che è capace di strappi interessanti, il 2015 lo ricordiamo tutti. Pause, intermittenze, per me è un giocatore che può far bene sicuramente, è un acquisto importante, non credo che fosse la prima scelta della Juve, questo sì. Allora ragazzi, ultimo tema che riguarda la partita che hai commentato ieri sera, Pierluigi, cioè il Bayern che sta cominciando ad assomigliare in maniera preoccupante ad Hamilton, a Marquez quando non ha il braccio rotto, che insomma non riesce più a perdere un trofeo, che sia uno almeno negli ultimi mesi. 15.000 spettatori a Budapest ieri, ne hai dedicato Radio Twitter a questo tema, pur tra qualche mugugno tedesco, perché Rummenigge stesso ha detto abbiamo paura che qui i contagi sono molto elevati, bla bla bla. Ceferin ha risposto: se non si comincia a fare qualcosa non si fa niente e si va avanti così. Ora qui ci, ed è notizia, anche questa è cronaca, ci si accapiglia per la soglia dei 25% allo stadio, tra regioni che dicono che spingono per il sì, governo che frena. Insomma, sui mezzi pubblici oggi Barbano ha scritto un interessante editoriale sul Corriere della Sera, non so, sul Corriere dello Sport, non so se l'avete letto. Che si fa, Riccardo? Mi darò fino alla nausea. Secondo me, se uno sta facendo una vita più o meno normale, quindi gli capita di andare in un ristorante, di prendere l'autobus, di prendere la metro, di vedere... autobus e metro 80% della capienza massima. Mi pare. Esatto, no? al chiuso. Come si può pensare di limitare uno stadio che è all'aperto? Come si può pensare di non far entrare almeno 10-15 mila persone in stadi da 60 mila? Io non mi interessa neanche il 25, il 22 o il 32, mi interessa che si faccia un ragionamento sensato, che si capisca che lo sport è bello con le persone allo stadio e che si distribuiscano equamente anche i 1000. Ma perché i 1000 tutti da una parte? Ma non possono stare in 500 da un lato e 500 dall'altro, anche certo, per macchiare diversamente lo stadio. Ma secondo me, ma soprattutto secondo per me la questione sul 25 e sul 30 è un falso problema. Bisognerebbe prendere il coraggio di aprire, come sono fatto ieri sera a Budapest. Sì, lo sport... A me non piace una cosa, Pier, a me non piace una cosa e la sai, lo sport è lo sport, il resto è il resto, non c'è dubbio. No. Non trovo corretto, non mi piace, l'ho detto anche prima nel GR, stare a pesare l'importanza, ok, ma dobbiamo pensare adesso alle scuole, certamente che dobbiamo pensare alle scuole, che c'entra? Il calcio e lo sport però non devono diventare le bandiere di un puritanesimo, no? Cioè, se lo sport fa parte dei piaceri, allora lo è esattamente come i bar, come i ristoranti e come tantissime altre cose, e lo è. Se fa parte, se lo vogliamo vedere dal punto di vista economico, esattamente come i bar e i ristoranti, è un tipo di luogo che porta gli interessi, che ha una filiera, che ha tantissime persone che lavorano. Quindi no, sai che io sono assolutamente laico nella visione di questo tema. Se può consolare, vi posso dire che il sindaco di Budapest era contrario alla partita a porte semiaperte di ieri nella sua città. Quindi voglio dire, tutto il mondo è paese, le polemiche ci sono assolutamente ovunque. Io credo che il tema sia molto legato alla fruizione del calcio, cioè il calcio ha le sue regole che sono quelle che ci piacciono. Il calcio prima del Covid era ovviamente gente che si abbracciava, quindi il distanziamento sociale è proprio qualcosa che non esiste, il calcio è contro il distanziamento sociale. È chiaro che se si fa questo tentativo, e secondo me va fatto, deve essere fatto con un'attenzione, con un rispetto totale alle distanze, alle mascherine e alle precauzioni. Secondo me bisogna stabilire che decide uno, perché non è, può esserci una polemica ogni 4 minuti, in collaborazione con il comitato tecnico scientifico, e che vengono stabilite poi ovviamente di settimana in settimana, perché qui le situazioni cambiano, possono cambiare, delle quote certo, di riempimento, certo, e soprattutto certo. È fondamentale fissare le procedure di accesso e di deflusso, perché questa è la cosa. Ma credo sia fattibile, credo sia. Non c'è dubbio. Credo sia assolutamente fattibile questo. Mario dalla provincia di Ascoli Piceno, poi salutiamo Riccardo. Buongiorno Mario, dica. Scusate, la voce spagnola. Pronto? Sì, dica. Sì, volevo intervenire in merito al nostro calcio. Cioè abbiamo dirigenti super professionisti, super professionali, super pagati, e secondo me sono dei dilettanti, diciamo. Vediamo gli ultimi casi, Suarez oppure il Diawara della Roma. Suarez gioca in Spagna da qualche anno, ha sposato una cittadina spagnola, poteva prendere benissimo la cittadinanza spagnola, quindi avere il doppio passaporto, perché la Spagna chiede un anno di matrimonio con un cittadino spagnolo e lui ha sposato con uno spagnolo, oppure 2 anni di residenza se viene dai paesi sudamericani. Questo si va su internet, sì, e lui non deve avere studi legali mega galattici che cercano di fare aggiustamenti. Gli spettava la cittadinanza spagnola e prendeva il doppio passaporto, era una cosa automatica e veniva tesserato come comunitario, quindi problemi, tutti questi grandi cervelloni proprio. Evidentemente i tempi non combaciavano con quelli del mercato nemmeno in Spagna, no Riccardo? Lascio a te quest'ultima chiosa sul caso Suarez. Non combaciavano e evidentemente qualche cosa nell'ingranaggio non ha funzionato, non esce bene nessuno da questa vicenda, però è veramente anche pesantissimo doverla affrontare, non tanto e non perché chi sia coinvolta la Juventus, ma perché siamo sempre qui, tanto poi si finisce mentre noi ci affanniamo a parlare 27 minuti di calcio, poi comunque si ritorna sul discorso polemico sull'esame di Suarez. Perché quello? Perché tanto poi c'era, allora quello dice, c'era Recoba, poi c'era Suarez, poi c'era i passaporti, poi c'è sempre il modo di fare una polemica. Nessuno dice che bello, la prima giornata non c'è stato nessun on-field review in Serie A. Siamo tutti a dire: ah, ma ci sono stati dati 157 rigori. Quando va tutto bene non se ne parla, quando invece c'è da fare un minimo di polemica siamo sempre lì. Secondo me bisognerebbe educare proprio il popolo ad andare verso un'altra... Ma sai, il tifo è il tifo. Cioè, in queste vicende più che in altre comanda la panza. Grazie Ricky, a presto. Grazie a voi. Grazie Capoccio. Grande piacere. Ciao Capoccione. Ciao. Allora, fermiamoci per la borsa, torniamo subito. Per lo scandalo Suarez, chi deve pagare sono tutti quei professori dell'università, non la Juve, che non c'entra assolutamente niente. Sono quei professori che hanno dato un pessimo esempio al nostro paese. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Pierluigi, sai adesso che facciamo? Facciamo. Sì, no. Lo so, perché mi hanno mandato la scaletta, quindi lo so. Non riesco più a trovarti impreparato mai. Sei troppo ligio al dovere. Facciamo gli auguri. A spicchi. Ma soprattutto facciamo gli auguri a Umberto Gandini, neopresidente della Lega Basket, il nostro amico, perché primo battesimo da presidente. Tra l'altro in un campionato che ha un numero non banale, 99. Ciao Umberto. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Pier. Ciao. Cosa devo chiederti dell'emozione che hai provato nello svelare, tra l'altro, quella bella coppa che vuole diventare iconica come Larry O'Brien Trophy dell'NBA? Sì, no, sono stato molto contento. È stato un momento di grande soddisfazione perché volevamo dare un segnale di cambiamento. Importante in una stagione che comincia con tutte le difficoltà che stiamo vivendo nel nostro quotidiano, e volevo che ci fosse qualcosa di nuovo di cui parlare. Siamo riusciti a portarlo fino in fondo, il trofeo a parer mio è molto bello, mi auguro che diventi nel corso del tempo iconico come quello che hai menzionato tu della NBA, Larry O'Brien Trophy, o come tanti altri trofei importanti. Evidentemente il mio background mi porta a pensare alla Coppa delle Grandi Orecchie, alla Champions, quindi questo è. E la stessa cosa il fatto di poter lanciare una nuova sponsorizzazione importante con il gruppo Unipolsai e tutta una serie di accordi, insomma abbiamo messo tanta carne al fuoco, li abbiamo presentati forse tutti insieme un po' esagerando, ma la sensazione che volevamo dare era quella che è cambiato il passo. Una bella botta di ottimismo e ci voleva di questi tempi, per Luigi. Aggiungo il maestro Sciale fra quelli iconici, ma al di là di questo, al di là degli aspetti estetici, sull'estetica delle coppe, dei trofei e dei piatti, come il caso del maestro Sciale, ci vuole ottimismo, e questo è il solito tema, insomma, anche nei giorni più duri e più bui del lockdown, chiunque avesse una responsabilità di qualsiasi tipo stava lì a immaginare con mille subordinate, con mille punti interrogativi, il futuro, come poteva essere, come potesse essere, e quindi sì, punto... è il compito di chi, esatto, di chi ha delle responsabilità direttive manageriali, no? Manageriali. E non voglio tornare sui problemi, Gandins, ma il discorso del pubblico, insomma, tu sai che nel calcio in queste ore il dibattito in furia, no? sulle riaperture, sulle percentuali, il basket è ancora più drammatico e urgente il dibattito, ecco, anche perché insomma abbiamo visto che il calcio comunque l'anno scorso è riuscito, pur con mille problemi, a portare a termine la stagione, e ovviamente con delle perdite, ma nel basket sappiamo che la biglietteria è importante, forse se possibile ancora di più, pesa di più? Assolutamente, in termini relativi pesa assolutamente di più. Noi abbiamo tracciato una strada che è stata definita e disegnata principalmente insieme alla Regione Emilia-Romagna e che è la base del documento che ieri alla conferenza delle regioni è stato presentato al governo e quindi messo alla validazione del CTS. Noi dal 27 agosto, 29 agosto abbiamo giocato con percentuali ridotte, con deroghe regionali che hanno permesso l'accesso del pubblico nei palazzetti in piena e totale sicurezza, non abbiamo avuto problemi di assembramento, non abbiamo avuto problemi di inciviltà, abbiamo avuto grande rispetto e grande attenzione da parte dei nostri appassionati, in particolare alla Final Four di Bologna, alla Segafredo Arena, è stato tutto perfetto, c'erano 2.000 persone, certo un impianto da 10.000, però intanto abbiamo dimostrato che si può fare. Mm. E speriamo tanto soprattutto che l'epidemia per quanto riguarda il nostro paese rimanga sotto controllo e che i contagi, che peraltro mi sembrano in maggior parte relativi ad asintomatici, siano sotto controllo. Dopodiché dobbiamo andare avanti, noi non possiamo pensare come altri sport di giocare a porte chiuse o con questo è chiaro, però al di là delle speranze al governo che dice che invece dice di no, che cosa, da rappresentante di un'istituzione dello sport italiano, cosa dici? No, dico che ci sono situazioni differenti, che non possiamo pensare che tutto venga condizionato alla Serie A di calcio, che ha enormi problemi come tutti, ma che ha anche la possibilità di gestire in una maniera migliore momenti di difficoltà. È evidente che il 25% di uno stadio da 80.000 vuol dire muovere 20.000 persone, muovere 2.000 persone in un palazzetto di pallacanestro è molto diverso da questo, quindi va bene le percentuali, ma attenzione che per cercare di soddisfare i numeri in assoluto più importanti poi si danneggiano tutti gli altri. Pier? Sì, io credo che sia esattamente questo il tema, cioè il calcio da questo punto di vista è un'eccezione, o l'NBA, perché la dimensione dell'NBA in America e in tutto il mondo è tale che si può anche giocare in una bolla col pubblico virtuale, perché tanto ci sono i diritti televisivi, milioni di spettatori, esatto, le decine, esatto, di milioni di telespettatori in giro per il mondo che ti guardano. Il basket italiano, che è nobilissimo, che è in cima sul podio tra gli sport più seguiti, però sappiamo che questo privilegio, non ce l'ha ricordato Umberto, non se lo può permettere fino in fondo, quindi si sta trovando una strada. E poi io credo sempre che la strada sia il grande senso di responsabilità delle persone, e qui torno alla polemica tra Boris Johnson e Mattarella, no? E quello che scrive la stampa, per esempio inglese, di noi, e il fatto che un po' mi fa sorridere, un po' mi fa incazzare, un po' mi fa felice, che ci sembra quasi che ci sia, no, un po' di sorpresa nel vedere che gli italiani hanno applicato durante la fase 1, insomma, del lockdown, degli strumenti più efficaci rispetto ad altri paesi, perché poi non è che siamo dei pirla, credo che i dati a livello europeo stiano a dimostrare questo, senza che lo dica Boris Johnson, no? No, appunto, quindi bisogna trovare una quadra, e questo è chiaro. L'esempio del basket secondo me è un esempio molto sano e molto giusto, in qualche modo è anche un meccanismo che può essere utile al calcio, nel senso che è quasi un progetto pilota, no? su come cambiare le abitudini negli stadi. Poi può non essere il massimo della vita cambiare queste abitudini, perché vorremmo abbracciarci tutti, però abbiamo detto delle volte. Abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità, però ci vuole anche grande senso di responsabilità politica a questo punto, perché tu puoi avere tutta la responsabilità che vuoi, però se ti dicono di no, perché ci sono, il primo pensiero sono le scuole, che mi sembra demagogia allo stato puro, allora bisogna fare altre riflessioni. Un'ultima cosa, Umberto, come immagini il futuro del basket in televisione? Ma lo immagino adesso in crescita, i numeri che abbiamo avuto dalla Supercoppa sono confortanti da questo punto di vista, immagino di costruire sempre più prodotti che parlino di basket, non necessariamente la partita, ma tutta una serie di prodotti sulle varie piattaforme eccetera, che facciano ricordare e riprendere quella passione che appunto c'è stata negli anni per la pallacanestro italiana. Poi evidentemente il prodotto, le partite eccetera lo fanno le società e lo fanno molto bene. Per il futuro vediamo, noi abbiamo 2 anni di contratto appena iniziati con Eurosport e con Rai, e valuteremo con loro, lavoreremo con loro per crescere. Se poi i numeri si premieranno avremo evidentemente dei vantaggi. Grazie Umberto. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao, ciao Umberto. Ciao. Pier, saluto anche te, poi parlo di ciclismo. Ciao Pierluigi. Ciao. Traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, sto vedendo Alvaro Morata in conferenza stampa di presentazione. Vediamo se riesco a farvi sentire una battuta. Ai tifosi juventini, se il numero di gol che hai realizzato, che hai fatto, che vorrai fare, sono da bomber o sono da attaccante? Grazie. Guarda, questa è una domanda che me la fanno tante volte e voglio essere sincero. Come attaccante certo che vorrei fare 30, 35, 40 gol, ma ne ho viste tanti nella mia carriera che hanno fatto 40 e non hanno vinto niente. Io ho fatto a volte 15, a volte di più, ma quasi sempre, tranne l'ultimo anno, ho vinto tante cose. Da titolare, da non titolare, ma è una squadra. Se vuoi guardare i numeri singoli è meglio che vai a giocare tennis o vai a giocare un'altra cosa, perché questo è un sport collettivo. Pier Augusto Staggi, che voto dai all'italiano di Morata? Ottimo. Ottimo. Non si può discutere. È già comunitario. Sì. Senti. Non scherzare, dai, mi vuoi ferire subito, mi metti subito in difficoltà. No, me ne guardo bene, ti voglio benissimo, lo sai. Invece Imola dipinta di tricolore, oggi crono uomini e già, insomma, sarebbe bello una maglia iridata, ma in generale questo mondiale organizzato in meno di un mese è un'impresa folle. È un'impresa folle che è nata da una mente folle e visionaria come quella del CT Davide Cassani, che è anche un nostro amico. Ha colto la palla al balzo, gli svizzeri si sono tirati indietro per mille più ragioni, tutte tra l'altro comprensibili. Devo dire che sul territorio l'idea di un impianto fatto e finito con tutto a posto, quindi con un sala stampa capiente, ultra collaudata, con spazi dedicati per i team, logicamente ricavati dal paddock, cioè c'era una struttura fatta e finita. L'Italia ha presentato la sua candidatura e ha detto: se ci date l'ok noi siamo disponibili, però non chiedeteci troppo soldi, anzi molto molto pochi. Devo dire che è stato bravissimo, l'Emilia Romagna è stata bravissima col governatore Bonaccini, che logicamente all'avanguardia assoluta. Sì, devo dire che del siparietto con Mihajlovic, che come ben sai, che bravo, non sembra neanche di sinistra, guardate, che simpatico, non sembra neanche di destra, però al di là di questo, insomma, storia recentissima, la cronaca della gestione dello sport italiano, quanto a impianti, quanto a provvedimenti, ha nell'Emilia Romagna credo la visione più lungimirante. Questo abbiamo visto ora Misano, come è stato organizzato il mondiale di ciclismo, che è arrivato all'improvviso ed è stato organizzato mi sembra perfettamente, ma poi tireremo le somme. Momento mi sembra molto bene. Al momento molto bene. Nel basket ne parlavamo ora con Umberto Gandini a Bologna, super finale di Supercoppa italiana, tutto è andato perfettamente. Io credo che sia in questo momento, dal punto di vista dell'organizzazione sportiva, la regione modello. Questo ben al di là di ogni valutazione politica o di tifo. Questo Carlo, avvalorare quanto stai dicendo, vorrei ricordare, visto che mi occupo di ciclismo, che il ciclismo si è rimesso in moto ai primi di luglio con grande fatica, e guarda caso la prima regione che si è resa disponibile e ha messo lì un impianto, perché il nostro è uno sport particolare, no? Uno sport di prossimità dove devi stare molto attento, c'era ancora grande preoccupazione, è stato proprio Imola, ed è stato ancora una volta l'Emilia Romagna, dove ha organizzato per una settimana delle corse. Sono state le prime, che sono state tra l'altro di incoraggiamento per altri organizzatori che erano terrorizzati, dicendo ma noi non abbiamo la struttura per poter organizzare cose così, e poi invece hanno visto e hanno fatto, diciamo, scuola. E lo stesso CT Davide Cassani è stato bravissimo, perché ha detto: se avete preoccupazione chiamatemi che io vi do una mano, rimettiamo in moto il movimento. E non solo ha messo in moto il movimento del ciclismo italiano, ma sta mettendo in moto addirittura un campionato del mondo, cioè il mondo è venuto qua, addirittura gli Stati Uniti d'America hanno mandato la loro nazionale, sono le prime corse che fanno. Sì, certo. Non è una cosa di poco conto. No, è di grandissimo conto. Per chiudere dal punto di vista agonistico, cosa vediamo domenica e quante chance abbiamo? Intanto, come hai ricordato tu giustamente, speriamo oggi. L'anno scorso Filippo Ganna è stato medaglia di bronzo, non abbiamo mai vinto dal 94 ad oggi un titolo mondiale a cronometro, abbiamo ottenuto solo 3 medaglie, una d'argento con Curato, d'argento con Malori, appunto il bronzo di Ganna. Quindi speriamo, incrociamo le dita, oggi può essere la giornata giusta. E poi domenica invece non dobbiamo farci grandi illusioni, perché è una nazionale un po' vecchia, col nostro grande Nibali 35 anni e non in grandissima condizione a detta sua, e qualche buon giovane. Anche noi abbiamo un giovanotto, non dico Pogacar, però dello stesso anno, a 21 anni, Andrea Baggioli, che al primo anno da professionista è già in azzurro e sarà titolare, ed è un ragazzo, guardatelo, osservatelo, è un gran bel corridore. E poi cosa possiamo fare? Possiamo comunque buttarci dentro, non abbiamo niente da perdere e quindi ci giocheremo una le corsa carte. Da outsider, tu dici? Sì, assolutamente, ma abbiamo anche un Diego Lissi che sta molto bene, ha vinto il Giro del Lussemburgo la scorsa settimana, e Damiano Caruso, che è un altro siciliano doc, che ha fatto un bellissimo decimo posto al Tour de France, sta bene, e quindi qualcosa possiamo inventare. Dobbiamo farci guidare dalla fantasia di Nibali, che sicuramente qualcosa farà lui o farà fare. È logico che non siamo i favoriti sono i soliti: Tadej Pogacar, Wout van Aert, questi sono i nomi più accreditati, e poi Giuliano, però si chiama Julien Alaphilippe, francese, cosa volete che vi dica? Non è italiano. No, non è italiano, affidiamoci alla creatività di Nibali, che spesso ci ha portato molto lontano, addirittura al di là delle aspettative e previsioni. Grazie Pier, ci sentiamo presto, grazie per Augusto Stagi. Grazie a te Carlo. Ovviamente a Lorenzo Nespoli in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, tutti convocati il weekend, con qui Giovanni Capuano. Domenica dalle 17 alle 19. Ciao a tutti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.